vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 19 luglio, il sole in regione sorto alle 5.35 e tramonterà alle 20.52. Domani c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. La valorizzazione dei prodotti e lavori in agricoltura passa anche per i marchi di qualità. Ce n'è uno nuovo, il PDM, ovvero prodotto di montagna, che interessa gran parte della nostra regione. Ne parliamo nel servizio di apertura, con un focus sul settore caseario. A seguire la rubrica del bio, con una serie di accorgimenti per limitare le malerbe nelle coltivazioni, e poi, per la storia del vino, il volgere del Medioevo e la scoperta dell'America che rivoluzionò anche il settore vitivinicolo. Antichissima e particolarissima la pianta trattata oggi, il ginkgo, l'unico a resistere allo scoppio della bomba atomica in Giappone, e una chiusura in bellezza per la rubrica del maiale, con consigli di porcoterapia. Andiamo invece a Barcola con lo spazio gastronomico che si occupa dei suoi famosi sardoni. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale, il proverbio della settimana chiudono la puntata. Tra le tante sigle delle certificazioni di qualità, prima tra tutte quella del DOC, ce n'è una nuova, PDM, che vuol dire prodotto di montagna, e tutela tutti quei prodotti che nella montagna vengono commercializzati, ma soprattutto prodotti a certe caratteristiche. Parte del leone, si può dire, ce l'avrà il settore caseario. Ne parliamo oggi con Fabiano Simsig, dell'Associazione degli Allevatori del Friuli Venezia Giulia, che cura questo settore. Innanzitutto, due parole su questo PDM. Sì, PDM o prodotto di montagna è un'indicazione facoltativa, non nuovissima, in quanto è per la prima volta è comparsa in un regolamento comunitario del 2012, che intende a tutelare i regimi di qualità dei prodotti, diciamo così, dell'Unione Europea. È da quella data che è iniziata questa tutela, che è terminata solo con un iter normativo abbastanza lungo nel 2018, con la comparsa del logo definitivo. Quindi ne possiamo parlare anche qui per il Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, quali sono i prodotti, quali le caratteristiche devono avere per potersi fregiare di questo marchio? Bisogna appunto che i prodotti vengano dalla montagna, quindi ci sono diverse filiere che possono, diciamo così, essere caratterizzate da questo marchio, da questo logo, che sono appunto la filiera lattiero-casearia, la filiera delle carni, la filiera ortofrutticola, quella dei cereali trasformati e della produzione apistica. Passiamo al settore caseario, di cui lei è uno tra i massimi esperti della regione. Le caratteristiche sono abbastanza semplici. È necessario che la produzione avvenga in territori considerati montani. Nella regione Friuli Venezia Giulia sono circa un centinaio di comuni, quindi più di un terzo del totale, che sono stati stabiliti in base al PSR 2004-2020. Ci sono poi delle deroghe per alcuni prodotti trasformati, in quanto non sempre le fasi di trasformazione avvengono nel territorio montano, però sicuramente devono essere nelle vicinanze, in particolare entro i 10 km per la trasformazione casearia ed entro i 30 km per le trasformazioni delle carni lavorate. Ecco, un formaggio, se deve essere PDM, deve avere anche altre caratteristiche, tipo conservazione, tipo da quali bovine e con che tecniche? Esatto. Diciamo che la maggiore caratteristica da un punto di vista delle produzioni casearie si tratta dei prodotti di malga, in quanto appunto gli animali allevati in alpeggio durante il periodo estivo completano la loro produzione del formaggio e la stagionatura in territori appunto di montagna. Ma anche altri prodotti caseari possono essere fabbricati in caseifici con allevamenti che vengono dalla montagna, anche di fondovalle, purché, diciamo così, siano all'interno dei comuni riconosciuti come montani in Friuli Venezia Giulia. Le caratteristiche qualitative dei prodotti di malga sono ormai conosciute da tutti ed è un prodotto di eccellenza, senz'altro, anche perché, diciamo così, nel corso degli anni stesse istituzioni regionali, l'università, l'ERSA, la stessa associazione allevatori si sono molto impegnati per migliorare le caratteristiche qualitative di sicurezza del prodotto, ma anche da un punto di vista della valorizzazione, in quanto effettivamente si tratta di un'eccellenza lattiero-casearia non solo della nostra regione ma di tutto l'arco alpino. Potrà dare un surplus economico avere questo marchio sui prodotti? C'è da augurarselo, anche perché a dire la verità forse i primi che devono crederci veramente alla qualità dei prodotti sono proprio i produttori stessi. Attraverso qualsiasi tipo anche di commercializzazione è necessario e utile che al giorno d'oggi possano essere valorizzati al meglio, non escludendo anche ciò che, diciamo così, grazie o a causa dell'emergenza Covid ha messo a disposizione dei consumatori, che è la vendita online. Quindi c'è da aspettarsi e augurarsi una bella campagna informativa. Esattamente, speriamo che tutto questo possa portare quindi a una valorizzazione del prodotto che poi entri un po', diciamo così, nelle tasche dei produttori, che sono quelli che, diciamo così, si sacrificano di più per questo tipo di produzioni. Le strategie contro le malerbe, che qualcun altro chiama altrimenti erbe accompagnatrici. Ci dice tutto oggi Cristina Micheloni per la rubrica del bio. Caldo e disponibilità d'acqua, niente di meglio per le colture in campo, ma anche per le erbe che spontaneamente crescono nel campo coltivato, che con la coltura da noi seminata condividono esigenze e preferenze. Infatti, quelle che chiamiamo usualmente malerbe, altro non sono che le essenze vegetali che meglio accompagnano la coltura che noi abbiamo scelto e per la quale facciamo del nostro meglio per creare le condizioni migliori, concimando, irrigando, lavorando il terreno nel modo più opportuno. Quindi siamo noi stessi che ci selezioniamo e coltiviamo le erbe accompagnatrici del nostro raccolto. Allora anche qui ci vuole un po' di strategia per lasciare che le erbe spontanee si sviluppino dove non interferiscono troppo con ciò che vogliamo raccogliere, ma evitandone anche la massiccia presenza dove invece possono darci un certo fastidio. E come si fa? Prevenzione, come al solito. Con la rotazione delle colture si depistano in qualche maniera le erbe accompagnatrici, nel senso che non si specializzano e diventano quindi più difficili da contrastare, come nella monocoltura. Poi sovesci coprenti e lasciamo il terreno più coperto possibile durante l'anno. Questo è un concetto che vale sia appunto per i sovesci coprenti, che non lasciano tempi morti o tempi scoperti appunto durante l'anno, ma anche per esempio per le colture che si consociano con quella principale, così come per le pacciamature. Ma non si pensi di eliminare le malerbe, perché la banca dei semi in un terreno coltivato medio contiene milioni di semi di specie diverse che possono mantenersi vivi per decenni. Quindi, quello che umanamente possiamo fare è evitare di incrementare la banca semi, minimizzando le occasioni in cui creiamo le condizioni propizie affinché germinino. Lavorazione del terreno, per esempio, in primis sono uno strumento. Sono loro, infatti, che portano in superficie e quindi in condizione di germinare i semi che altrimenti se ne starebbero buoni. Infine, si deve rifinire il lavoro con strumenti meccanici, tema su cui la tecnica negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti, sia nella meccanica che nella sensoristica che nell'utilizzo dei dati georiferiti. Di conseguenza si riesce ad avvicinarsi sempre di più alla fila o anche alla singola pianta, riconoscendo il colore o la posizione. È un altro esempio di come il biologico usi la tecnologia, anche quella più innovativa, ma senza farsi possedere dalla stessa e senza cadere nella semplificazione per cui la sola tecnologia divenga la soluzione. Per chi voglia approfondire quella sana combinazione fra agronomia, tecnologia utile e pratica di campo, il 31 luglio ci vediamo a Aris di Rivignano con una giornata aperta, dimostrativa e in campo sulle macchine che possono gestire le infestanti, le erbe accompagnatrici, e le lavorazioni del suolo. Tutte le informazioni alla pagina Facebook della trasmissione o sul sito di IAB FVG. Mi raccomando, iscrivetevi, causa Covid è obbligatorio. Sul volgere del Medioevo il vino cambia le sue rotte, spostandosi dalle isole greche a Spagna e Portogallo, e poi con la scoperta dell'America tutto cambiò, come ci dice il professor Roberto Zironi nella rubrica della storia del vino. Molti mutamenti economici e sociali portarono rapidamente ad un'uscita praticamente dalla situazione feudale. In particolare le vie commerciali furono molto molto attive e da questo punto di vista Venezia non fu sicuramente seconda a nessuno. In particolar modo organizzò, diciamo, delle navi, delle galee adatte alle rotte atlantiche e incentivò fortemente l'esportazione delle malvasie, che erano vini che venivano commercializzati con un valore 25 volte superiore al vino comune, quindi notevole fonte di reddito. Le malvasie venivano prodotte nel Mediterraneo orientale, nelle isole greche. Purtroppo, in contemporanea con questa incentivazione, diciamo, dell'esportazione verso l'isola britannica, questi territori delle isole greche diventarono terreno di conquista dell'impero ottomano e quindi la Spagna e il Portogallo cominciarono a piantare gli stessi vitigni su quei territori, quindi piano piano sostituirono Venezia nel commercio internazionale di questi vini dolci. Ma parliamo di vini di eccellenza, di vini di qualità superiore, ma la maggior parte della produzione era ancora una produzione di vino che poteva avere notevoli problemi da un punto di vista alimentare. Una rivoluzione si ebbe nel 1487, quando un decreto reale rese possibile in Germania la utilizzazione dello zolfo come conservante del vino. In pratica permise la miscela, diciamo, di zolfo, truccioli di legno, incenso ed erba aromatica che veniva bruciato all'interno della botte prima che venisse conservato il vino. Quindi da questa data possiamo dire che i vini tedeschi avevano la possibilità di conservarsi maggiormente e con un notevole vantaggio competitivo rispetto ai vini francesi, che invece ebbero questa possibilità soltanto a partire dal 1800. Ma 5 anni dopo, nel 1492, Cristoforo Colombo scoprì le Americhe, che sarà un'età moderna anche per la produzione del vino. A Hiroshima l'unica pianta sopravvissuta all'esplosione della bomba atomica è stato il ginkgo, essenza coltivata a scopi ornamentali anche nella nostra regione. Ce ne parla oggi Antonino Daneluto, che ci chiede un anno sabbatico per la sua rubrica. Lo ringraziamo per la sua collaborazione, augurandogli buon lavoro per i tanti impegni scientifici che sta seguendo. Mandi. Erano le 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, quando un aereo statunitense sganciò la bomba atomica su Hiroshima. Improvvisamente la vita si fermò e la città giapponese si trasformò in un cumulo di macerie. Il potente spostamento d'aria e le elevatissime temperature non avevano risparmiato né edifici né persone e animali. Anche le piante subirono gli effetti devastanti dell'esplosione, ma quasi per miracolo, nella primavera successiva, su 6 di esse, carbonizzate, spuntarono alcune gemme. Erano 6 esemplari di ginkgo, tuttora vivi e rigogliosi, assurti a simbolo di pace, di speranza e di rinascita della città. Il ginkgo è ritenuta una pianta fossile, forse la più antica esistente, in quanto superstite di una flora risalente a qualche centinaio di milioni di anni fa. È un albero dioico, il cui nome scientifico è Ginkgo biloba. Originario della Cina e diffuso anche in Giappone, nella nostra regione è coltivato a scopo ornamentale in diversi parchi e giardini e non tende a spontaneizzarsi. Può raggiungere i 30-40 metri di altezza, ha chioma piramidale, tronco eretto assai ramificato. Le foglie sono lungamente picciolate di color verde chiaro, spesso divise in 2 lobi a forma di ventaglio, in autunno splendidamente dorate e caduche. I fiori si formano in luglio-agosto. I maschili sono riuniti in amenti e i femminili, poco appariscenti, sono singoli o in coppia. Il frutto, che compare sulla pianta femminile, è ovoidale, normalmente giallastro, commestibile da fresco e fetido alla marcescenza. I cinesi lo definiscono albicocca d'argento. In fitoterapia si utilizzano le foglie raccolte in giugno-luglio, che contengono, fra i vari principi attivi, flavonoidi e terpeni. Si rivelano un valido medicamento della terza età, agiscono sull'intero sistema circolatorio, migliorando l'irrorazione sanguigna arteriosa periferica e soprattutto quella cerebrale. Sono inoltre indicate contro vertigini, cefalea, acufeni e cellulite. Pare che abbiano una moderata efficacia nella fase iniziale del morbo di Alzheimer. Per uso esterno, le foglie risultano utili contro geloni e pelli senescenti. Secondo vecchie leggende, al ginkgo vengono attribuite virtù magiche, tra cui quella di tenere lontani gli spiriti maligni. Ultimo contributo per Cronache Suine, la rubrica di Adriano Del Fabbro, che quest'ultima puntata la intitola Porcoterapia. Sentiamo di cosa si tratta. Certo, oltre a farsi alimento, il maiale diventava pure farmaco. Dai tempi del Medioevo e dell'utilizzo del lardo per alleviare le sofferenze dei malati di lebbra e di herpes zoster, la porcoterapia si è diffusa nella pratica medica tradizionale friulana. A molte parti dell'animale venivano assegnate, a ragione o a torto, capacità curative. Per questo un angolo del camarin era trattato dalla nonna di casa con l'attenzione che si dedica a una vera e propria porzione di farmacia. Le verruche, fino a qualche anno fa, erano comunissime sulle mani della gente di campagna. In generale si usava sfregarle con la cottenna di maiale maschio. La terapia veniva integrata con l'atto magico di gettarla poi dietro la schiena o seppellirla, per interrompere in tal modo ogni rapporto fra persona malata e malattia. La stessa cura veniva suggerita per la borsite, mentre sempre con la cotenna si sfregavano le gengive sofferenti dei bambini alla loro prima dentizione. Sulle ferite si applicava un impiastro fatto con lardo macinato, foglie di millefoglio e di cicuta rossa. Sui patarecci, la mastite e le contusioni cutanee, invece, si applicava una fettina di lardo. Le distorsioni si ungevano con il lardo rancido. Per la tosse da tubercolosi polmonare si preparavano delle foglie di salvia su cui si appoggiava una fettina di lardo con un po' di sale da inghiottire ogni mattina. Foglie e lardo si distendevano sui polmoni risanandoli. Il lardo pestato si applicava sulle schiene doloranti, sulle scottature e si frizionavano le parti colpite dalla parotite epidermica. Per le scottature solari si consigliava di sciogliere un po' di calce spenta in un po' d'acqua e mescolarvi dello strutto, sino a ottenere un unguento da spalmare su una pezzuola di lino e applicare sulle parti bruciate. I traumi interni si potevano risolvere ingerendo mezzo litro di strutto. Per trattare la rogna si spalmavano le parti colpite con un unguento a base di strutto e zolfo. Era famosa, inoltre, la cura con il midollo stagionato delle ossa di maiale per gli ematomi, le contusioni e le distorsioni. Si utilizzava sotto forma di unguento da spalmare sulle parti doloranti. Si poteva anche frizionare la parte con del lardo pestato miscelato con un trito di foglie di prezzemolo. In alcuni paesi si credeva che bere il sangue del maiale servisse a curare l'anemia. Nel Medio Friuli, per trattare i calli, si adoperava il lubrificante delle ruote, che era grasso di maiale cotosi con gli sfregamenti del movimento delle ruote. La cistifellea si applicava sui patarecci, mentre con lo scroto ci si fregavano le distorsioni. Sulle stesse si poteva stendere del lardo pestato e miscelato con un trito di foglie di tasso barbasso. Per far uscire le spine dalla pelle si consigliava un'applicazione fatta di strutto e felce quercina o farfaro, pestata finemente. Con lo strutto, infine, si ungevano pure le emorroidi. I sardoni, e non solo a Trieste, sono variamente famosi e linguisticamente frequentati. La versione che oggi ci propone Roberto Zottar è quella degli impanai. Il sardone non è una grossa sarda, ma è semplicemente il termine usato a Trieste per definire l'alice o l'acciuga. È presente anche in un'espressione tipica popolare come tirar sardoni, e l'immagine probabilmente è quella di pasturare il pesce prima di tirare effettivamente l'amo, cioè fare complimenti, provarci, far la corte di una ragazza. In area giuliana il sardon batte decisamente la sardella in popolarità. Stiamo parlando della specie ittica Engraulis encrasicolus, e comunque alice e sardella sono due specie ittiche di famiglie diverse. L'acciuga ha corpo più snello, privo della cresta ventrale di scaglie presenti nella sardina, la colorazione è argentea sui fianchi e biancastra sul ventre, il dorso è verde-azzurro. È un pesce pelagico che si avvicina alle coste nei mesi di maggio-giugno per la riproduzione, esattamente come fanno i sardoni barcolani che in questi mesi affollano il Golfo di Trieste e danno il meglio di sé sia in termini di sapori e sia di rapporto qualità-prezzo. Nel 1931 Francesco Babudri scriveva: «Un pasto gustosissimo è il friggerli e mangiarli a scottadeo, a battiscarpa, a scappa e fuggi». Paradisiaci i sardoni triestini barcolani. Medifast raccontava che un tempo a Trieste erano numerosi frittolini, piccoli locali e stretti di origine veneta, dove si preparavano, oltre ai sardoni, le sardelle fritte, la frittura de minudaia, composta da schile e girai. Quest'ultimi, i latterini, sono noti a grado come anguelle e i triestini, con il loro tipico humor, li chiamano anche ribalta vapori. Per impanare i sardoni bisogna eliminare la testa, svuotarli dell'interiore e aprirli a libro, togliendo la lisca centrale e lasciando i due filetti attaccati lungo il dorso, infarinati, passati nell'uovo sbattuto con un po' di sale e poi nel pane grattugiato. Volendo si possono abbinare a due con un pezzo di mozzarella per ripieno prima di impanarli. Si friggono in olio e sono pronti quando sono di un bel colore dorato e di una consistenza croccante. Immancabilmente sono accompagnate da un contorno di radicetto primo taglio o di matavilz o ardielut, cioè valeriana, spesso con l'aggiunta di fagioli freschi lessati. Buon appetito e buona estate! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, avvenute ancora attraverso videoconferenze. Il mais, con umidità 14%, è stato quotato tra 17,20 e 17,40 euro al quintale, IVA esclusa. L'orzo, con peso specifico 60-63, tra 13,50 e 14 euro. E il frumento tra 16,80 e 17,10. Rispetto ad un anno fa, il mais è aumentato di 60 centesimi e l'orzo è diminuito di 1,80 euro al quintale. Passando ai bovini del macello, nessuna novità di rilievo nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,40 e 2,20. Pure il mercato dei vitelli da ristallo conferma l'andamento della settimana scorsa, con i blu belga maschi quotati tra 6,20 e 6,60 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,70 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,10 e i bruni tra 1,60 e 1,90. Tendenza in difficoltà invece nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 2,15 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,18 al chilo. Domanda stabile nel settore caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 6,05 e 6,35 euro al chilo IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Per quanto riguarda il latte di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, la commissione della Camera di Commercio di Pordenone e Udine lo ha quotato franco stalla a 36,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore della RPA Osmer, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Luglio finora si è presentato con frequenti ingressi di correnti fresche settentrionali che hanno provocato a tratti instabilità. Ci sono già stati da 5 a 8 giorni con piogge e temporali sulla regione. Abbiamo registrato un andamento delle temperature diversificato. In pianura e in montagna, specie in quota, finora le medie sono state abbastanza vicino, appena un po' al di sotto della norma. Sulla costa, invece, specie in provincia di Trieste, sono state di circa un grado inferiori al normale. Il fatto che in queste zone sia stato più fresco è dovuto alla frequente presenza di bora, anche forte, specie i giorni dal 3 al 7 e poi l'11 e il 12, condizioni che hanno favorito anche la risalita di masse d'acqua più fredde dal fondale del mare, che poi nei giorni successivi hanno mantenuta più fresca anche l'aria. Questa caratteristica diventa meno evidente a Grado e a Lignano per la ridotta profondità del mare antistante, che d'estate rimane comunque più caldo rispetto alla costiera triestina da 2 a 4 gradi, fino a 5-6 gradi quando soffia bora. Ora il tempo è più stabile, con correnti nord-occidentali in quota, e le temperature massime domani e martedì saranno intorno a 30-32 gradi sulla pianura, con variabilità e qualche pioggia pomeridiana in montagna. Quindi anche quest'anno sembra essere confermato che in media la giornata più calda di luglio è il 22. Fra mercoledì e giovedì affluiranno nuovamente correnti settentrionali più fresche, che provocheranno qualche rovescio temporalesco, probabilmente anche in pianura. Tornerà un po' di bora sulla costa e le temperature scenderanno di alcuni gradi. Venerdì sera e sabato sembra abbastanza probabile l'arrivo di un fronte atlantico, che porterebbe un nuovo peggioramento con piogge abbondanti e temporali. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Sante Maria e Maddalene e vai volentieri, ovvero Santa Maria Maddalena il 22 luglio piange volentieri, qui inteso come piove volentieri. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.